Canto 23 della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 23. Taciti, soli e senza compagnia n'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, come i frati minor vanno per via. Volto era in sulla favola d'Isopo lo mio pensier per la presente rissa, dov'ei parlò della rana e del topo, che più non si pareggia mo ed issa, che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia, principio e fine, con la mente fissa. E come l'un pensier dell'altro scoppia, così nacque di quello un altro poi, che la prima paura mi fe doppia. I pensava così: questi per noi sono scherniti, e con danno e con beffa si fatta, ch'assai credo che lor noi. Se l'ira sovra il mal voler s'agguffa, e ne verranno dietro più crudeli che cane a quella lebre che gli acceffa. Già mi sentia tutti arricciar li peli della paura e stava indietro intento, quando i dissi: maestro, se non cedi te e me tostamente, io pavento di malebranche. Noi li avem già dietro, io gli immagino sì che già li sento. E quei, s'io fossi d'impiombato vetro, l'immagine di fuor tua non trarrei piuttosto a me che quella dentro in petro. Pur mo venìano i tuoi pensieri tra i miei, con simile atto e con simile faccia, sì che d'entrambi un sol consiglio fei. S'egli è che sì la destra costa giaccia, che noi possiamo nell'altra bolgia scendere, noi fuggiremmo l'immaginata caccia. Già non compio di tal consiglio rendere, io li vidi venir con l'ali tese, non molto lungi per volerne prendere. Lo duca mio di subito mi prese, come la madre ch'al rumore desta e vede presso a sé le fiamme accese, che prende il figlio e fugge e non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camicia vesta. E giù dal collo della ripa dura, supin si diede la pendente roccia che l'un de lati all'altra bolgia tura. Non corse mai sì tosto acqua per doccia a volger ruota di mulin terragno, quand'ella più verso le pale approccia, come il maestro mio per quel vivagno, portandosene me sovra al suo petto, come suo figlio e non come compagno. Appena furo i piei suoi giunti al letto del fondo giù, che gli giunsero in sul collo e sovresso noi, ma non gli era sospetto, che l'alta provvidenza che lor volle porre ministri della fossa quinta, poder di partir s'India a tutti tolle. Laggiù trovammo una gente dipinta, che giva intorno assai con lenti passi, piangendo e nel sembiante stanca e vinta. Egli avean cappe con cappucci bassi dinanzi agli occhi, fatti della taglia che per i monaci in colonia fassi. Di fuor dorate son, sì che egli abbaglia, ma dentro tutte piombo e gravi tanto, che Federigo le mettea di paglia. O in eterno faticoso manto! Noi ci volgemmo ancor, pure a man manca, con loro insieme, intenti al tristo pianto. Ma per lo peso quella gente stanca venia si pian che noi eravam nuovi di compagnia d'ogni muover d'anca. Perch'io al duca mio: fa che tu trovi alcun ch'al fatto al nome si conosca, e l'occhio sì in andando intorno muovi. ed un che intese la parola tosca dirietro a noi gridò: «Tenete i piedi, voi che correte sì per l'aura fosca, forse c'avrai da me quel che tu chiedi». Onde il duca si volse e disse: «Aspetta, e poi secondo il suo passo procedi». Ristetti e vidi due mostrar gran fretta dell'animo col viso d'esser meco, ma tardavano il carco e la via stretta. Quando fur giunti, assai con l'occhio bieco mi rimiraron senza far parola. Poi si volsero in sé e dicean seco: «Costui par vivo all'atto della gola. E sei son morti, per qual privilegio vanno scoverti della grave stola?» Poi dissermi: «O tosco, ch'al collegio degli ipocriti tristi sei venuto, dir chi tu sei non avere in dispregio». Ed io a loro: «Fui nato e cresciuto sovra il bel fiume d'Arno, alla gran villa, e son col corpo ch'io sempre avuto. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla quant'io veggio dolor giù per le guance, e che pena è in voi che si sfavilla?» E l'un rispose a me: «Le cappe rance son di piombo sì grosse che li pesi fan così cicolar le lor bilance. Frati godenti fummo e bolognesi, io catalano e costui Loderingo nomati, e da tua terra insieme presi. Come suole esser tolto un uom solingo per conservar sua pace, e fummo tali ch'ancor si pare intorno dal Gardingo. Io cominciai: «O frati, i vostri mali...» Ma più non dissi, che agli occhi mi corse un crocifisso in terra con tre pali. Quando mi vide, tutto si distorse soffiando nella barba co sospiri, e il frate catalan, che a ciò s'accorse, mi disse: «Quel confitto che tu miri consigliò i farisei che convenia porre un uom per lo popolo a martiri. Attraversato e nudo è per la via, come tu vedi, ed è mestier che il sente qualunque passa come i pesa pria. E da tal modo il suocero si stenta in questa fossa, e gli altri del concilio, che fu per gli giudei mala sementa». Allor vid'io maravigliar Virgilio sovra colui che era disteso in croce tanto vilmente nell'eterno esilio. Poscia drizzò il frate con tal voce: «Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci se la man destra giace alcuna foce onde noi ambedue possiamo uscirci senza costringer degli angeli neri che vegnan nesto fondo a dipartirci». Rispose dunque: «Più che tu non speri, s'appressa un sasso che dalla gran cerchia si muove e varca tutti i vallon feri, salvo che questo è rotto e non coperchia. Montar potrete su per la ruina che giace in costa e nel fondo soperchia». Lo duca stette un poco a testa china, poi disse: «Mal contava la bisogna colui che peccator di là uncina». E il frate: «Io udì già dire a Bologna del diavol vizi assai, tra i quali udì ch'egli è bugiardo e padre di menzogna». Appresso il duca a gran passi s'engì, turbato un poco d'ira nel sembiante, ond'io dagli incarcati mi partì dietro le poste delle care piante. Fine del canto 23.